Buongiorno, sono Simone, sono un tifoso della Lazio e sono per cultura rigorosamente antifascista. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non c'è niente! Lo sbarco sulla luna è stato finito. Abbiamo fatto gli studi e noi siamo arrivati a questa decisione. Stavate qua a mutare la fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno, un cazzo. Long time radio. Ne fa un'altra. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che amarezza interiore che porto dentro di me. Che amarezza interiore. Questa è una puntata che di Buongiorno un cazzo, anche se pensavo di aver finito la stagione, di pensare ok, poi ne farò altre di puntate nella prossima stagione, magari mi organizzerò meglio, magari le farò live. Però, come immagino molti di voi sapranno, sono successe delle cose, successe alcune cose che mi hanno, diciamo, quasi costretto a fare questo episodio, anche se ci ho riflettuto sopra, non l'ho fatto d'impulso, non l'ho fatto di primo approccio, diciamo. E ci ho pensato sopra tanto, perché, come ho detto, io, insomma, come molti di voi sanno, io sono rigorosamente un antifascista, ma in realtà, come molti di voi sanno, sono una persona di ispirazione socialista, sono una persona che si considera di sinistra, da sempre. E la mia militanza appartiene proprio al mio passato, in qualche maniera alla mia gioventù, ma comunque il mio pensiero sostanzialmente non è mai cambiato da questo punto di vista. E questa cosa alla fine, tante volte mi è toccato un po' dare delle spiegazioni, parlare, spiegare un po' le cose, insomma, cozza un po' con la mia fede calcistica, che in realtà già uno dice vabbè, ma in realtà se sei una persona impegnata politicamente stai a pensare al calcio, ma io penso che il calcio sia una malattia che abbiano in tanti, che potremmo tranquillamente farne a meno, ma fa parte di noi, è un modo, insomma, di attaccarsi a qualcosa che ci faccia anche distrarre, diciamo, da un certo punto di vista. E quindi questo mio essere antifascista dovrebbe in teoria cozzare con l'essere un tifoso della Lazio. Me l'hanno chiesto in tanti, ma come tu, come fai, ma non sei coerente? A prescindere dal fatto che, al di là di un discorso di identità generale, diciamo un certo modo di vedere le cose che può rientrare, diciamo, in un certo tipo di visione globale, di orientamento, io non credo che nel calcio ci debbano essere, e penso sia anche abbastanza inutile, un'appartenenza politica. Era un'appartenenza politica che è entrata negli anni 70-80 nelle curve in generale, no? Poi ci sono state le distinzioni tra le curve di destra e le curve di sinistra. Oggi praticamente sono tutti di destra, quindi non è che c'è, dicono tu sei della Lazio quindi sei di destra, ma in realtà i tifosi dell'Inter sono identici ai tifosi della Lazio, i tifosi del Real Madrid sono identici ai tifosi della Lazio e tante altre realtà in Italia, insomma, non parlavo magari dei tifosi del Verona, ad esempio, e via dicendo. Però devo dire che se questa mia appartenenza, questo mio legame affettivo profondo che ho con la mia lazialità, con il mio essere della Lazio, che significa anche come posso dire, una sorta di legame filosofico, un certo modo di vedere le cose, no? Quell'approccio legato a una storia, che è una storia difficile, fatta di lacrime, sangue, gioie. E una storia forse a volte troppo poco raccontata, se non per i soliti fatti, no? Quindi la banda Maestrelli, il fatto che erano tutti dei mezzi briganti secondo quello che vengono raccontati, quindi magari andavano in giro armati, che erano tutti un po' fascisti e via dicendo. In realtà la storia della Lazio è una storia ricca e anche appassionante, e questa storia ricca e appassionante, come ho raccontato magari in altre occasioni, è quello che mi ha appassionato anche da ragazzino, perché io sono diventato della Lazio proprio grazie a un gol di Poli. Ma per dire, insomma, in un momento in cui un ragazzino avrebbe potuto diventare un tifoso di un'altra cosa. Comunque, torniamo un attimo al quid, alla questione, quella più importante, no? E dicevo, se comunque il mio essere della Lazio, quindi avere questa mia affezione verso questa bandiera, verso questi colori, verso questo club, mi dovesse essere vincolato all'essere etichettato, o comunque a far parte, ad essere comunque inserito all'interno di un contesto, è chiaro che tra le due cose io sceglierei la mia identità personale, individuale, politica, comunque le cose per le quali ho lottato veramente in tutta quanta la mia vita. Ma non con questo significa allora non sei un vero tifoso, perché il tifoso ti direbbe questo. In realtà non è così. In realtà penso che talmente lo vedo un abuso, un sopruso, questa identificazione nel essere laziale e quindi fascista, per me è una cosa intollerabile, e quindi di conseguenza trovo proprio difficile riuscire ad accettarlo, ma di fare un compromesso con me stesso fino a un certo punto. Poi c'è la parte, quella rivoltosa di me, no? Quella che dice: ma perché io devo sottostare a questa regola? Perché devo rinunciare a un qualcosa perché qualcuno definisce quel qualcosa come appartenente a un'area politica, a una visione politica, all'essere fascista? Non ci sto io a questa cosa. Non ci sto, e secondo me non ci dovrebbe stare nessuno in generale che ha questa filosofia, al di là di che cosa è successo, no? Perché voi sapete, il fatto si scatena col fatto che la Lazio ha preso questo nuovo giocatore dal Napoli, Isai, che come rito di iniziazione, una cosa che si fa tutti gli anni a Oronzo durante il ritiro, i nuovi devono mettersi in piedi su un tavolo e cantare una canzone a scelta, e ovviamente tutti ridono perché sono delle pippe a cantare, no? E Isai ha scelto Bella Ciao. Ha scelto Bella Ciao, che è una canzone che su Runtime Radio avrete sentito sicuramente tantissime volte. Ma la scelta molto probabilmente perché quella canzone era la sigla di una popolarissima serie televisiva spagnola, che è La Casa di Carta, che sicuramente in tanti avete visto. Tra l'altro, prima stagione è meravigliosa. Ma anche se non fosse, perché poi io ho trovato il mondo Lazio, l'informazione legata al mondo Lazio, che cercava di giustificarsi, no? Cioè, vabbè, ma lui non lo sapeva, ma che ne sapeva? Poi ho sentito veramente delle cose, ma poi ne parlo un attimo di questa cosa. Comunque, anche se non fosse una sua scelta, il fatto che all'interno di un club una parte della tifoseria debba definire la libertà di cantare o non cantare un qualcosa all'interno del proprio mondo, della propria realtà, della propria libertà individuale, è una cosa inaccettabile, ragazzi, a prescindere da cosa ha cantato e da chi è la fonte della protesta. Potrebbe essere stato anche al contrario. È inaccettabile che una persona appena arrivata debba capire in un modo così brutale, per uno striscione scritto da magari 4-14enni imbecilli infogliatico con delle stronzate che c'hanno nel cervello, oppure magari invece da persone veramente organizzate, dove c'è scritto Isai Verme, la Lazio è fascista. Ma siamo arrivati veramente alla frutta. Io sento molto parlare nel mondo Lazio il fatto che magari giocatori importanti non vengono, al di là del discorso degli stipendi o che magari non vengono i grandi sponsor, ma perché io, sponsor internazionale, che ho a che fare con migliaia di realtà multietniche all'interno di tutto il mondo, devo vincolare la mia immagine a te, che sei una società che viene etichettata come fascista dai tuoi stessi tifosi? Quindi, se un giocatore all'interno della società fa un qualcosa che la società ritiene sbagliato, in qualche maniera la società interviene e parla con il proprio interessato, cioè proprio il proprio tesserato. In qualche maniera si trova una mediazione, si trova una soluzione. Ma in questo caso la Lazio ha preso una posizione netta, non solo a favore del giocatore, ma al fatto che nessuno può determinare cosa fa un tesserato all'interno della Lazio che non sia la Lazio stessa, e nessuno può identificare la Lazio per un'area politica piuttosto che un'altra, perché la Lazio non si farà intimidire. Questo è un approccio intelligente. Invece l'approccio comunque io ho gradito, no? Cioè ho gradito perché, cioè, finalmente, perché molti poi un giorno capiranno perché c'è questa guerra contro l'udito, un giorno lo capiranno, ma il problema è che il mondo Lazio in generale non parla di questo. Non parla forse per paura, forse per paura di ritorsioni, per problemi. Magari pure io sto a fare una cosa che mi si ritorcerà contro, arriva qualcuno e mi spezzerà una gamba, perché potrebbe benissimo essere, cioè non è che. E non è che io non sia magari preoccupato di questa cosa. Però raga, a un certo punto bisogna dirlo, no? Vabbè, il mio è un po' un discorso un po' confuso, però vabbè, cioè in realtà è dovuto anche dall'amarezza, no? Poi alla fine sto vedendo il mondo Lazio, cioè i cronisti, gli youtuber in generale, no? Che o non ne parlano, oppure ne parlano come è stata una cazzata. Io ho sentito gente dire, però pure gli altri giocatori avrebbero dovuto avvisarlo. Ma avvisarlo di che? Ma magari quelli non ci hanno, a parte che non ci hanno mai pensato, vabbè, senza considerare l'intervento di uno in una radio che ho sentito qua, perché voi quello che dovreste dire, non avete il coraggio di dire che quella canzone, Bella Ciao in questo caso, appartiene alle origini, si sanno bene quali sono le origini, perché degli storici hanno fatto delle ricerche e nessuno ne parla di questa cosa. Vedete le ricerche dei famosi studiosi che parlano degli UFO, no? Degli accreditatissimi scienziati determinano che quel dipinto dimostra in maniera incontrovertibile che gli UFO sono stati sulla Terra nel Medioevo. La stessa cosa, la stessa identica cosa. E questo è internet, ragazzi, questo è l'internet che quando l'abbiamo, ci siamo approcciati noi negli anni 90, lo vedevamo come il grande sogno, e poi alla fine è diventata la manifestazione dell'amplificazione della merda, della merda che c'è nella vita normale. Era inevitabile, purtroppo è una questione proprio, senza educazione qualsiasi strumento diventa merda nel nostro mondo, ma non in Italia. Invece voglio fare i complimenti a Vittorio Campanile, che penso che sia stato, Vittorio Campanile lo sapete, è stato presente con noi in un paio di trasmissioni come ospite, abbiamo parlato di calcio probabilmente, sicuramente. E Vittorio Campanile è un giornalista, giornalista serio, cioè tra tutti quelli che fanno gli youtuber e che magari fanno anche i numeri per certi versi, perché fanno gli youtuber, cioè hanno la politica, l'atteggiamento, l'approccio da youtuber, quelli che ovviamente fanno i titoli aggressivi, non parlano mai male, magari non entrano mai in polemica con chi li ascolta e via dicendo. Invece Vittorio Campanile è uno youtuber, sì, ma è un giornalista serio, uno che comunque quando dà delle notizie le ha comunque verificate, le ha controllate, ed è stato l'unico nel mondo Lazio che ha fatto il titolo Via i fasci dalla Lazio, e ha fatto un video parlando solo di questo, e ovviamente, no? E saranno arrivati gli insulti, ma era inevitabile, no? Nel senso, mi spiace per lui, ma era inevitabile, ma avrà sempre la mia stima eterna proprio per questo suo approccio, proprio per questo suo coraggio. Non so se ci saranno delle conseguenze, se perderà degli ascoltatori, se qualcuno gli andrà a rompere i coglioni, non lo so, insomma, perché poi ho visto anche video sparire da YouTube con queste storie qui. Però intanto l'ha fatto. E giustamente lui l'altro giorno mi segnalava il fatto che c'era uno che diceva ma devi rispettare la libertà d'opinione. La libertà d'opinione per per il senso critico che c'è oggi, perché veramente la gente oramai ha una povertà di pensiero, un'incapacità di ragionamento che fa paura, ragazzi, fa veramente paura. Ecco, la libertà di opinione è quella di aggredire una persona perché non canti una canzone, quella è la libertà di pensiero. Cioè, nel senso, io devo lasciarti libero di impedire a una persona di non essere libera di diventare una canzone. Io penso che non ci sia altro da aggiungere. Grande Vittorio, grandi tutti, e grandi tutti quelli che stanno reagendo a questa cosa, quindi a tutti gli antifascisti all'interno del mondo Lazio, e sempre e comunque forza Lazio. Nel cielo bianco azzurro brilla una stella che in tutto il firmamento è sempre la più bella, ed ogni volta che rintocca il campanone ho voglia di cantare questa canzone. Lazio sul prato verde vola, Lazio tu non sarai mai sola, vola un'aquila nel cielo, più in alto sempre volerà. Insieme a te Aquilotto noi voliamo via, la domenica sempre ci fai compagnia, con le bandiere al